24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Perché molte volte quando le persone mi vedono e parlano del Ministero dell'Integrazione, pensano che sono io la ministra degli stranieri. Io sono la ministra di tutti. Sono la ministra di tutte le persone. Costei è la ministra Cécile Kyenge che dice: non sono la ministra degli stranieri, sono la ministra di tutti, o il ministro. Oh mamma mia, adesso mi sono impelagato in questa cosa, il ministro, la ministra. Cari italiani che siete all'ascolto, 6:33 minuti, fatemi sorridere oggi, fatemi, vi prego, fatemi sorridere, fatemi ridere. Io saluto Miriam Lucchetti in redazione, saluto l'alpino Peter Bescapè in regia, apro subito il Parlamento, e perché ho chiamato due persone oggi al Parlamento che mi faranno sorridere sicuramente, perché sono... due persone che ci dicono il cose. Caffè volentieri a tutti quanti. Con un bel caffè, intelligenti, ma so che mi faranno anche sorridere un po'. Vi prego, vi prego. Ieri mi sono ritagliato dai giornali questa frase, me la sono appesa qui sulla scrivania dove ho il mio muro del pianto, no? È piccolo, tutto composto di puzzle. Dopo facciamo una foto, lo mettiamo su Facebook. Ho messo questa frase: l'umorismo è la chiave della sopravvivenza. Marianne Satrapi, grazie, grazie. Allora io ho chiamato Lia Celi, che saluto, grazie Lia di essere qui, grazie, perché mi farai ridere. Buongiorno, ciao. Trovo in pieno la frase di Marianne. Esatto, se riusciamo a ridere... Dire, poi in Iran di umorismo per sopravvivere ne ha avuto bisogno abbastanza. Lia, ti presento il grande Marione Adinolfi. Mario, facce ride come... No, ecco. Io ti faccio incazzare. No, eccolo lì. Faccio incazzare. Allora, il premio lo vince il sindaco di Mario Adinolfi. Voglio subito partire, voglio sapere un giudizio sul sindaco di Roma. Mario Adinolfi, il sindaco di Roma, pare... mi abbia combinata una, almeno oggi scrive così Francesco Merlo su Repubblica. Ha scelto il nuovo comandante dei vigili urbani. Hai presente Oreste Liporace? Oreste Liporace l'ha presentato, 3 lauree, generale dei carabinieri. Cioè, ecco l'uomo giusto, ha scelto 50 curricula. È lui, l'ha presentato. Si sono accorti che per un bando dello stesso comune, dello stesso Marino, non hai titoli. Non hai titoli per fare il comandante. Ieri Liporace ha rifiutato, si è ritirato dalla corsa, diciamo. Certo, non hai titoli. Non hai titoli. Mamma, che bello. Siamo dentro la descrizione del disastro italiano. Vuoi ridere? Ridi. No. ridiamo. Vabbè, oggi Repubblica con Francesco Merlo fa tutta una pagina. Il sindaco e il colonnello. Cioè, capisci, Lia Celi, è generale, ma è colonnello da soli qualche mese, e quindi doveva essere generale da 5 anni. Insomma, l'hanno presentato in pompa magna e non si sono accorto che non aveva requisiti secondo... la scelta. Guarda, Alessandro, alla fine, se ci fosse qualcosa che andasse come deve andare in Italia, sarebbe uno shock troppo grande. Quindi, forse devo dire che con tutto quello che succede, una cosa così anche fuori di Roma passa abbastanza inosservata. Sì, no, ma infatti. Diciamo, non bisogna scioccare i romani mostrandogli che qualcosa andava nel modo giusto, cioè senza sotterfugi, senza brutte figure. Ma la brutta figura è incorporata in qualunque cosa si faccia, si decide in Italia adesso, sennò. Abbastanza. Però, insomma, il fatto che non abbia titoli uno che è generale, che ha 3 lauree, boh, non lo so, forse hanno sbagliato a scegliere anche i criteri. Non so se lo racconta Merlo, perché non ho letto l'articolo. Sì. La verità è che c'è stata la rivolta assoluta dei vigili urbani, per cui non... una limitazione permanente da giorni. No, poi Roma, il titolo che mancava era anche quello di essere parente del sindaco precedente. Eccola lì subito, lì a Celi. Non era parente di Alemanno, questo è il problema di Nolfi. Quindi... Battutaccia. Vabbè, allora vogliamo partire da che cosa? Vogliamo parlare dell'amnistia e dell'indulto? Volete parlare dell'immigrazione con la tragedia? Ecco, no, vi voglio chiedere questo, Maria Dinolfi, cosa hai pensato sinceramente, con tutto il rispetto per il gesto eccetera, quando hai visto il nostro Presidente del Consiglio inginocchiarsi e chiedere scusa? Sono qui per chiedere scusa alle vittime di Lampedusa. Ma io questa cosa, ovviamente lì il lutto è talmente enorme e non credo, francamente conosco Enrico Letta per sul piano personale, non credo che sia stato un gesto da parata, insomma. No, ma no, il dato che mi interessa è che una cosa che non sono riuscito bene a capire, che c'è tutta una retorica della vergogna intorno a questa vicenda, lo ha detto il Presidente della Repubblica, lo ha detto il Papa, io non ho ancora capito bene verso chi è rivolta l'accusa di vergogna. La vergogna di chi deve essere, perché questa cosa non mi è chiara. Ma sai, dal Papa lo posso capire, cioè vergogna perché da Papa. Ma non lo so. Chi è il cattivo della cosa? Vergogna, non so, nei confronti di Dio, sai, il Papa. No, devo Dio, e che fa? La prende col principale? Vergogniamoci tutti di fronte a Dio. No, non che è colpa di Dio, è che ci dobbiamo vergognare di fronte a una cosa del genere. Da Papa lo posso capire. Cioè, sì, ma perché? Che cosa non abbiamo fatto? Cioè, non ho francamente capito. La vergogna forse verso lo scafista che ha caricato queste 500... O forse che se succede non abbiamo fatto qualcosa per impedirlo, quindi vergogna per questo. Mi è sembrato tutto molto molto retorico. Diciamo, molto italiano, ecco, diciamo che questo è l'aggettivo giusto. Sì, cioè, abbastanza italiano. Davanti alla tragedia ci mettiamo a batterci, però non abbiamo capito bene qual è il problema, non abbiamo capito bene qual è la responsabilità, non abbiamo capito bene cosa dobbiamo fare. Semplicemente riprendiamo, gli diamo il reato di immigrazione clandestina, ecco, tanto per dire una cosa, forse lì c'è la vergogna vera, questi superstiti di persone. Sì, che però anche lì non è che il reato di clandestinità è la causa della tragedia, la verità è che nessuno conosce la causa e quindi nessuno saprà estirpare questa causa, questo è il dato di fatto. Tu, Lia Ceri, cosa hai provato quando hai visto il Presidente del Consiglio in ginocchio? Guarda, su Twitter avevamo proprio nell'onda dell'emozione, lo stesso giorno molti avevano, fra cui me, avevano invocato una apparizione lampo proprio di Letta sul luogo del disastro e a botta calda avrebbe fatto un altro effetto. Adesso in effetti a distanza di tempo prende tutta un'aria molto di retorica e lacrime di coccodrillo, un po' questi gesti e frasi alla Francesco che stanno diventando molto di moda, insomma il Papa sta lanciando anche un modo di trattare le tragedie, proprio il fatto che è stata la Chiesa che ha cominciato a chiedere scusa per le sue colpe vari secoli dopo, la scusa a Galileo, la scusa per l'antisemitismo, insomma, quindi diciamo che la Chiesa è una pioniera in questa strategia. E poi anche questi gesti così eclatanti e molto mediatici, a distanza di tempo in effetti è quello che è l'idea che dà, anche se oggettivamente ma tu ti sei vergognato, il governo italiano dell'Italia non ci fa una, ma no, certo, ma tu questo vergogna l'hai capito, cioè come a dire, per esempio mi scrive un ascoltatore, Mario, vergogna da parte del Papa è rivolta all'uomo in genere, capisci, il Papa parla all'uomo, ho capito, ma Alberto il Papa Grosso, ho capito, ma il Papa non è il capo di un governo, nel senso, sì, è il capo di uno Stato, ma non è che sceglie le responsabilità. No, ma è anche la parola di Napolitano, la prima parola usata da Napolitano è stata vergogna. Vergogna chi? Tu, Lia, ti sei vergognata in qualche modo? No, ma comunque guarda, in Italia se dici vergogna non casca mai nel vuoto, perché qualcuno deve vergognarsi di qualcosa, tu arrivi a casa dai tuoi 50 figli e dici vergognatevi e qualcosa sarà successo. Io so, come sai, c'è il proverbio cinese, quando torna a casa picchia tua moglie, ecco, infatti io non volevo dirlo, non sai perché lei sì, no? Allora, quando torni a casa di vergogna e qualcuno, io non volevo dirlo, ma siccome lo dici tu che sei donna, se no poi dopo mi accusano, mi telefona la Boldrini, sì, infatti forse di noi adesso chiamerà, ti oscurerà il profilo Twitter, Laura Boldrini, dopo questa battuta, Lia, stai attenta perché il proverbio cinese non lo so se si può fare. No, sarebbe meglio che passasse, che togliessero gli ostacoli alla legge sul femminicidio, più che mettere ostacoli al mio account, francamente. Sì. Comunque, quindi Mario, non ti sei vergognato, non sai con chi ce la dobbiamo prendere, non sai che ci vedi un po' di retorica pelosa, questo un po' si vede, anche, però anche il dibattito su cancellare la Bossi-Fini o cambiare la Bossi-Fini o che ne so, togliere il reato di clandestinità sull'onda di questa emozione, forse anche questo è strumentalizzare, no? Ma certo, ovviamente c'è una strumentalizzazione. Guarda, l'italiano è maestro, insomma, nella costruzione di falsi problemi, insomma. Io pensavo alla notizia del giorno che mi ha veramente divertito tanto. È la famosa questione del ministro del lavoro Giovannini, certo, che dice che gli italiani sono inoccupabili. Il ministro del lavoro che dice che gli italiani sono inoccupabili, siamo al capolavoro. Dopo insomma, il Ciusi della Fornero, il ministro del lavoro dice siete ignoranti. Allo stesso tempo, però. Io mi sono andato perché ho detto vabbè, questo è impazzito. Mi sono andato a leggere le tabelle dell'Ocse su cui poi è nata questa... E quindi ha ragione. Gli italiani sono ciucci, e quindi rientriamo in un mio vecchio slogan. Mamma mia. Gli italiani sono ciucci, non sanno leggere una tabella, non capiscono, non sanno scrivere, per l'Ocse, Infatti Giovannini commentava quello, visto i dati Ocse, cioè siamo ultimi in italiano e penultimi in matematica, siamo poco occupabili. Certo, che allora, però detto dal ministro del lavoro... dirigenti del genere, perché siamo una manica di ciucci e di conseguenza con quelli che ti ascoltano eccetera. No, ma infatti questo tra poco arriva la segreteria telefonica, stai buona. Lia Celi, effettivamente questo è il tema che ha suscitato polemiche oggi. Gramellini in prima pagina della Stampa dice ministro, ma siamo poco occupabili, e commentando questi dati dicendo gli italiani non sanno studiare, sono ultimi secondo i dati Ocse sul livello di apprendimento, e quindi il ministro del lavoro ha detto i giovani sono poco occupabili, poco spendibili, sono ignoranti praticamente. Allora, due cose, appunto, a me ha fornito questo meraviglioso sinonimo di lazzarone da usare con i miei figli, che così li posso dire appunto quando non fanno i compiti, siete inoccupabili se non siete altro. Inoccupabile! E poi però ci sono altri dati che contraddicono questa cosa, perché leggevo proprio adesso dalla... Bookmesse di Francoforte, pare che gli italiani si siano rimessi a leggere, questa è una cosa incredibile, comprano pochi libri ma leggono molto, mentre in Inghilterra i ragazzi si vergognano di leggere, ma proprio è una questione di onta sociale farsi vedere con un libro in mano. Quindi ci sono veramente dei dati contraddittori, ognuno tira un po' la coperta da sua parte, ecco. Certo, che però dire effettivamente siete poco occupabili, cioè per esempio Mario, Gramellini oggi fa notare che magari è vero la base, ma detto dal ministro del lavoro, cioè quando diventi ministro del lavoro è come un po' il Ciusi della Fornero, non no? Non lo puoi dire, ma insomma. Oppure sì, lo puoi dire. Io sono stato la settimana scorsa, ero a Londra. Tu sali su una metropolitana di Londra, 8 su 10 hanno in mano o un libro o un giornale. Io in questi ma giorni se ci ha appena detto foto lì alle che persone non... che vedo sul tram. All'85esima foto, finalmente ho trovato uno che leggeva. All'85esima foto. Sì. È la verità dei fatti, è così. Non leggiamo. Il numero di giornali venduti, il numero di libri venduti, non sono cose inventate, insomma. Non leggiamo. Se noi imparassimo a fare invece degli articoli di Gravellini l'analisi su quanto siamo messi male, ma non come siamo messi male perché è cattiva la casta, perché c'è ormai una popolazione indolente, pigra, incapace, che si lagna al bar e dice fregnaccia. Questo è la radice del popolo italiano ormai. Popolo italiano. Questo è il vero dramma nazionale. Bene, sei prontissimo con questo editoriale a lanciare subito dopo il traffico la segreteria telefonica. Rientriamo. 24 mattino. Da buon italiano tu hai un po' gli orecchi duri, nel senso, è la terza volta che ti chiedo che cosa c'entra il premio Nobel a Lampedusa. Io non sono arrabbiata, lo ero ieri, perché pioveva da giorni e io avevo la lavatrice piena di roba che avevo lavato, cioè. Oggi invece è arrivato un barlume di sole, non sono più arrabbiata, forse mi asciuga tutto. Calma, non ce la facciamo più, Milan, diglielo tu a questi politici che litigano per tutto. I rignanesi e i faleriani in provincia di Viterbo non ce la fanno più a fare 4 km la mattina in mezzo alle buche, crateri. Si ricordino bene i nostri parlamentari tutti che la vera rivoluzione è cominciata da Napoli. Le 4 giornate le tenessero in mente, a noi adesso ne basta una. Caro Alessandro, vada voi siete molto, ma molto, molto, molto, molto lontano da essere un paese civile. Un paese dove i disabili non possono neanche muoversi, perché non hanno previsto niente per i disabili. Ma siete molto, ma molto lontani da essere un paese civile. Basta con questa IMU. Io pago un affitto di 850 euro 12 mesi l'anno. Adesso una persona non se ne può togliere 800 per solo un mese? E santa pazienza, basta. Forcone, direi basta, perché gli individui di cui parliamo devono avere una corazza in titanio, penso, non so, non sono colpibili. Invece mi era venuta in mente un'idea per i profughi, i migranti, eccetera. L'isola è piccola, ma se si allestisce un villaggio tipo quello per i terremotati in terraferma, e dopo lo diamo in gestione agli svedesi, d'accordo? Agli svedesi, però, mi raccomando, lo diamo in gestione, Mario Di Nolfi, agli svedesi. Quella della lavatrice, quella della lavatrice non era male, eh. No, dice la carina. Il napoletano dice fa la rivoluzione. Questa è la vicenda che mi sta appassionando di più in questi giorni. Ah, certo, certo. Vicenda della terra dei fuochi. Guarda. Cioè, questi hanno da 30 anni i camion che tutti i giorni vanno a sversare i rifiuti tossici in quella zona, con politici corrotti, collusi con la criminalità organizzata, politici che hanno votato regolarmente, sì, per 30 anni, adesso facciamo la manifestazione. Guarda questa che, l'Italia. Guarda che l'Italia. A Napoli non ti aspettano, Ti aspetto. Ma io aspetto loro, quando vogliono, insomma, sono grosso. Vabbè, Lia Celi, qua c'è il rapporto, non so, Mario Di Nolfi pensa sempre che il nostro pubblico, non so, Mario, vuoi lanciare il tuo piccolo... Ma sicuramente erano meno violenti, devo dire la verità, quindi qualcosa di peggio, c'era pure quella della lavatrice che mi stava simpatica. Io invece pubblico resta di merda, però non so, qualcuno non vabbè, vuoi lanciare o no il tuo... Lancia, funziona. Io ho detto il popolo di merda, adesso pubblico. Allora dai il tuo 1, 2, 3 che qua ti... Pubblico di merda! No, dico dai l'1, 2, 3 che te... Ah, per sentire Moretti, che è più intellettuale. 1, 2, 3, vai. Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Cara Lia, Adinolfi ha iniziato questa disfida con il mio pubblico. Io scusate, ma io devo prendere spunto da quello che diceva la signora della lavatrice. È stato veramente un consiglio pratico per tornare a sorridere alla vita. Fate il bucato a mano per una settimana, poi compratevi una lavatrice che funziona e il mondo istantaneamente vi sembra il migliore dei mondi possibili. Infatti. Pur con il governo che va male, con le tasse e tutto, ma veramente. Sempre che per le donne la lavatrice è stato quello che Abraham Lincoln è stato per i negri d'America, quindi veramente posso capire come ma quella ha detto ieri ero arrabbiata, oggi invece il mondo mi sorride, mi si asciuga tutto con il sole. Questo è sempre un assunto, e comunque l'italiano parte sempre dai fattacci suoi, ma questa signora basici sono la cosa decisiva, particolare di Guicciardini, Particolare di Guicciardini, no? Questa mattina deve avere fatto studiare Guicciardini a uno dei suoi 50 figli che avranno il tema in classe su Guicciardini oggi, no? E quindi... No, quegli inoccupabili mai che studino Guicciardini. Vabbè. Qua siamo quasi in conclusione. Marione, ma perché ce l'hai con Napoli? L'hai spiegato? Io ho fatto un articolo sugli italiani, c'erano tre righe dedicate a questa vicenda della terra dei fuochi e t'hanno scatenato il delirio. T'hanno fatto un mazzo così. Una sola cosa, non ai napoletani ma agli italiani: guardate che la responsabilità, indicando i cattivi, la solita cosa, sentiamo la segreteria telefonica, i parlamentari, bla bla bla, tutto vero, ma la responsabilità fondamentalmente è dell'ignavia di ciascuno di noi, e forse in quelle tabelle OCSE che il povero Giovannini ha letto, come abbiamo letto tutti, e ha fotografato un paese retrogrado, ma retrogrado non solo nella sua classe dirigente, anche in una popolazione di livello infimo dal punto di vista culturale, di consapevolezza civile, di capacità di fare battaglia. Dovevi farmi ridere, che è popolo di merda, però dovevi farmi ridere. Pubblico di ignavi, questo è pubblico di ignavi.

42% della popolazione carceraria in carcere in questo momento è in attesa di giudizio, dunque vuol dire innocente fino a prova contraria. Il problema c'è, ma è questa la soluzione? Amnistia e indulto? Oggi il giornale ricorda anche tutte le carceri nuove mai messe in funzione. Un ascoltatore mi scrive, per esempio, c'è un carcere a... mi sono perso la località. Comunque, Pieve di Coriano Mantova, pronte ma mai utilizzate. Ne vogliamo parlare con un esponente senatore del Popolo della Libertà che è stato anche ministro della giustizia, Nitto Palma. Buongiorno, senatore. Buongiorno. Così come... a voi. E voglio salutare anche un magistrato, era con noi anche ieri, non abbiamo approfondito questo tema, ma è qui per questo, Nicola Gratteri, procuratore a Reggio Calabria. Buongiorno Gratteri, ben ritrovato. Buongiorno, procuratore aggiunto. Procuratore aggiunto. Non rubiamo titoli. No, procuratore aggiunto a Reggio Calabria. Gratteri, per lei è una soluzione l'amnistia e indulto? Assolutamente no, ma la cosa più grave non è l'indulto, l'amnistia, la cosa più grave non è se escono 5.000, 8.000 detenuti in più o in meno, 5.000, 8.000 delinquenti in giro per l'Italia, cambia poco per quella che è la situazione in Italia. E la cosa grave è che si continua a mettere nella testa della gente il tarlo, che in Italia poi alla fine tutto si può aggiustare, alla fine c'è un rimedio, alla fine c'è almeno uno sconto. Questa è la cosa grave, cioè il vivere alla giornata, un'approssimazione. E non c'è certezza di nulla in Italia e questo aumenta la diffidenza della gente nei confronti della politica, nei confronti di chi amministra giustizia. Io dico, gli stessi politici che molti dei politici che oggi sono in Parlamento c'erano anche il giorno in cui hanno votato per l'indulto anni fa. Dal giorno dopo io vorrei sapere ognuno di questi cosa ha fatto per risolvere il problema delle carceri, visto che noi già in quel tempo noi abbiamo detto che intanto bisogna capire perché nel 94 è stato chiuso il carcere di Pienosa e di Lasinara, dove potevano stare benissimo quelli al 41 bis. Intanto si potrebbero fare dei trattati bilaterali, perché nel corso di questi anni non sono stati fatti trattati bilaterali, o anche in questo momento, perché domani mattina il Ministro della Giustizia non va a Tirana, non va in Romania, non va in Tunisia a fare trattati bilaterali, così noi, perché noi in Italia abbiamo in questo momento 20.000 detenuti stranieri, 20.000 detenuti stranieri, quindi già si risolverebbe il problema. Poi c'è il problema in Italia nelle carceri dei tossicodipendenti, cioè gente che sta in carcere perché ha rubato due macchine e stasera, oggi, quando uscirà e finirà la pena, stasera andrà a rubare un'altra macchina, farà un'altra rapina per uscire, per pagarsi la dose. Quindi bisognerebbe mandare questi tossicodipendenti in comunità terapeutiche protette per costringerli a provare a disintossicarsi, perché cioè, le medie ci dicono che ogni 10 tossicodipendenti 4 ce la fanno. E varrebbe la pena provarci. Quindi lei dice intanto richiamare la politica al cosa hanno fatto il giorno dopo che hanno votato quell'indulto di qualche anno fa. Che per esempio, questo è un punto concreto. Senatore Palma, lei non si sente, in quanto anche rappresentante della politica in questo caso, anche ex ministra della giustizia, le tra virgolette accuse del procuratore aggiunto Gratteri alla classe politica, cosa hanno fatto, le trova condivisibili? Io trovo condivisibile molto di quello che ha detto Nicola Gratteri. Il problema è questo. Noi, quando ero ministro, parlo per me, non parlo evidentemente per altri, nel settembre del 2011 ci fu una sessione carceri al Senato su richiesta della componente radicale del Partito Democratico. E si affrontò in maniera abbastanza seria il problema del sovraffollamento. E in quella sessione si cominciò a parlare di amnistia ed indulto. Al di là della mia posizione personale, io all'epoca dissi che era un ragionamento che si poteva fare se nel frattempo si fosse, come dire, attivata una grande riforma del sistema carcerario, capendo bene che cosa deve essere il carcere e l'espiazione della pena, e nel contempo si fosse anche intervenuti su una riforma abbastanza seria della custodia cautelare. All'epoca, come oggi, il Presidente della Repubblica parlava e parla di un uso eccessivo della custodia cautelare. E poi dei mali del processo penale, noi abbiamo circa il 25-30% di detenuti in attesa di giudizio nelle nostre carceri, e di questi quasi il 50% vengono poi assolti nella fase dibattimentale. Mm. E dicevo che solo all'esito di questa grande riforma si poteva cominciare a ragionare sull'amnistia e l'indulto. Non è un caso, vede, che l'ultima amnistia risale, se non ricordo male, Nicola probabilmente ha più memoria di me, e mi pare che risalga al 1990, e venne fatta subito dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ma una grande riforma. È chiaro, ma l'idea della gente è che siano proprio effetti e misure tampone, proprio, cioè siccome non si fanno le riforme, ogni tanto si fanno amnistie e indulto. Stavo arrivando. Evidentemente per ragioni le più diverse, queste riforme, diciamo, del mondo della giustizia non sono state fatte. Cosa è accaduto nel frattempo? Nel 2000, lasciamo perdere l'indultino della 14ª legislatura, che pure ebbe degli effetti deflattivi. Nel 2006 è stato fatto un indulto, come ricordava Gratteri, che ha portato all'uscita dal carcere di circa 22.000-23.000 detenuti. E nello spazio però di 2 anni il numero carcerario dei detenuti ritornò esattamente come prima. Appunto. Andiamo avanti. E successivamente venne fatto un provvedimento svuota carceri e il cosiddetto porte girevoli della Severino, che nella realtà portava semplicemente la liberazione di 1200 posti detenuti, in quanto faceva riferimento alle cosiddette porte girevoli, cioè a tutti quei detenuti che entravano e uscivano dal carcere nello spazio di 3-10 giorni per questo porte girevoli, quindi ebbe un effetto oggettivamente non interessante. E lo stesso ultimo decreto svuota carceri del ministro Cancellieri, come ci ha detto il presidente Tamburrino, cioè il capo del DAP, ha esaurito i suoi effetti, il che equivale a dire che serve rifarlo, però equivale a dire che serve rifarne un'altra. Cioè... No, il che equivale a dire, mi scusi, come diceva sostanzialmente Gratteri, che tutti questi interventi più o meno tampone, più o meno emergenziali, che sono diretti esclusivamente al mero problema della detenzione carceraria, non sono in grado di risolvere il problema stesso, in quanto non sono supportati da una seria riforma. No, ma è chiaro, cioè servono a fare delle misure tampone, ma poi l'effetto, Gratteri, lei è un punto sul quale ha battuto, è l'idea e l'immagine che si dà anche agli italiani, no? L'immagine che in Italia poi in qualche modo, come ha detto lei, Gratteri, tutto si aggiusti? Sì, perché purtroppo questo allontana la gente dalla credibilità della politica, e questo è un peccato. Poi perché nessuno parla di riaprire Pianosa e la Sinara? Perché lì lei pensi che a Pianosa c'è una sala operatoria che credo nemmeno l'ospedale di Locri, dove io vivo. E poi bisognerebbe incominciare a mettere mano, bisogna mettere ordine un po' al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Nel suo piccolo ricordo che il ministro Palma nel poco periodo di tempo, ad esempio in una situazione di emergenza, ha sciolto la banda della polizia penitenziaria, gli ha detto andate nei reparti a fare trattamento ai detenuti. In Italia non ci sono molti detenuti rispetto ad esempio a Francia e Germania. In Italia noi abbiamo 112,6 detenuti ogni 100.000 abitanti, in Spagna e in Francia 127, quindi in più. Non è che in Italia sono assai detenuti, in Italia non ci sono le carceri, molte sezioni delle carceri attualmente sono chiuse per mancanza di personale, molte carceri, ad esempio c'è vicino Cagliari un carcere che manca pochissimo per essere riaperto, e dove è stato costruito appositamente per i 41 bis. E i 41 bis, anziché spalmarli su 12 carceri, potrebbero essere spalmati su 4 carceri, mettendo persone specializzate. Poi al DAP, ad esempio, siccome io faccio parte di quella commissione voluta dal Presidente Letta e un po' ho approfondito la situazione delle carceri, e ad esempio al 16 agosto mancavano 7.000 uomini della Polizia Penitenziaria, e poi c'erano due concorsi che erano... si erano conclusi da luglio, un intero corso allievi agenti, anziché mandarli nei reparti sono stati mandati in ferie. 120 unità di ufficiali di graduati, di funzionari della polizia penitenziaria, anziché mandare nei reparti, sono stati mandati in ferie. Allora queste cose vanno viste, ci sono furgoni blindati con 600.000 detenuti e poi c'è un parco macchine, ci sono due Mercedes blindate che fanno comprati per trasportare i 41 bis, mentre attualmente non vengono utilizzati per questo motivo, che fanno un chilometro al litro . E non abbiamo i soldi per comprare la carta. Lei dice, è tutto proprio un sistema che andrebbe riformato e che dà questa immagine agli italiani che poi alla fine diciamo che facciamo amnistia e indulto, ci tra virgolette laviamo per 2 anni la coscienza nei confronti dei detenuti e tra 2 anni saremo qui a rifare gli stessi tipi di ragionamenti. Fatemi andare un attimo in pubblicità, da qualche minuto riprendiamo col senatore Nitto Palma, il Popolo della Libertà, con Nicola Gratteri, procuratore aggiunto a Reggio Calabria, anche con le vostre chiamate. Allora, che ne pensate? È chiaro, lo so, ognuno ha le proprie proposte, fare accordi bilaterali, e Gratteri ci spiegherà quanto è possibile mandare i detenuti stranieri, cioè in patria, costruire nuove carceri, aprire quelle che sono sottoutilizzate. Insomma, ognuno ha la propria proposta, diteci la vostra tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, siamo col senatore Nitto Palma, Popolo della Libertà, con Nicola Gratteri, procuratore aggiunto a Reggio Calabria. Discutiamo di amnistia e indulto. Tra l'altro, Gratteri, devo dire, poco fa su Twitter, ma glielo dico tra poco, Michele Emiliano, sindaco di Bari, siccome abbiamo twittato la sua dichiarazione di Pianosa Sinara, ha dato una risposta, ma tra un attimo glielo dico. Intanto vorrei sentire come ascoltatori Mario da Roma. Buongiorno Mario. Buongiorno a tutti, buongiorno. Io le volevo dire, io faccio il volontario in carcere da circa 10 anni, sono un articolo 17 dell'ordinamento penitenziario e ho più sportelli, sia su Roma sia a livello nazionale. E naturalmente sono d'accordo sull'amnistia e sull'indulto e sono d'accordo, anche se non vedo, diciamo così, un certo coraggio politico e legislativo sulla modifica, se non l'annullamento, delle 3 leggi che affollano, che sono la Bossi-Fini, Fini Giovanardi e soprattutto la cosiddetta ex Cirielli. Però mi scusi Mario, lei è d'accordo, ma quando un procuratore dice questo dà un'immagine all'Italia che tutto si aggiusta in un modo che non è quello che si spera dovrebbe essere il modo normale, cioè uno sta in carcere e si aggiusta così, e sono d'accordo con l'amnistia e indulto perché in carcere sta male, facciamo in modo che sia un'espiazione, non una punizione, ma che stiano in carcere. È questo, cioè questo è un provvedimento, diciamo così, di urgenza, ma se si modificano queste leggi e soprattutto se si applicano degli automatismi di una legge che c'è dal 1986, conosciuta come legge Gozzini, e questo non riaffollerebbe sicuramente. Ma non abbiamo capito che la politica, per motivi misteriosi, non è in grado di fare quelle riforme che, associate all'amnistia e indulto, ci potrebbero impedire tra 2 anni. Perché lei tra 2 anni, Mario, richiamerà questa trasmissione a dire che è favorevole a un nuovo indulto amnistia, perché magari si fa e quelle leggi invece non vengono fatte. E come la mettiamo, Mario? Okay, se intanto quella che già è esistente, che è la legge Gozzini, viene praticata come automatismo in tutte le sue forme, perché adesso l'unica, la pace sociale, glielo dico proprio da volontario, la pace sociale in carcere è retta dall'unico automatismo della legge Gozzini, che è la cosiddetta liberazione anticipata, cioè i 90 giorni di sconto di pena legati a, diciamo semplificando, a una buona condotta. Lei comunque, Mario, dice che appunto bisognerebbe modificare quelle leggi che affollano il carcere e però nel frattempo è favorevole a un provvedimento di urgenza, che qua siamo d'urgenza in urgenza. Dennis dalla provincia di Lecco, buongiorno Dennis. Sì, salve, buongiorno a tutti, cercherò di essere veloce. Grazie. E grandi complimenti al signor Gratteri, che seguo con molto piacere. Il discorso è questo: all'estero si sa benissimo, si usa questo braccialetto elettronico, di cui in Italia so che sono stati spesi 140 milioni di euro e il progetto non è partito. Fate conto che un sistema GSM commerciale, economico, costa 35-40 euro, parliamo di una tecnologia GPS con registrazione di eventi, perciò di posizioni. E lei vorrebbe più braccialetti elettronici? No, vorrei evitarli, ma visto che è una tecnologia che funziona all'estero, l'applicherei subito in Italia. E metterei, vorrei vedere le fatture di quel progetto come sono andati a finire i soldi, sì. E certamente li porterei nelle casse dello Stato quei soldi. Va bene, e Dennis, lei farebbe questo in Italia, come si fa all'estero in maniera efficace? Prima di tornare da Nitto Palma, Gratteri, Emiliano sa che ha risposto Michele Emiliano su Twitter al perché non riaprire Asinara a Pianoso, perché sono state chiusi, ha risposto perché era una delle richieste di Cosa Nostra per far cessare la strategia stragista, cioè, come dire, adombrando il fatto di una richiesta che lo Stato, che ma, lo se Stato questo, ha... ma se questo il sindaco Emiliano di Bari se è certo di questo, perché non ha fatto una denuncia, perché non si è incatenato davanti al Parlamento, perché non ha fatto la terza guerra mondiale con il partito del quale fa parte, cioè questa è una cosa, io non so per quale motivo è stato chiuso, ma se questo è il motivo è gravissimo e io non dormirei la notte al posto di Emiliano dal 94 ad oggi per far uscire questa cosa. Sì. Senatore Palma, no, ma è chiara la sua risposta. Senatore Palma, le chiedo questo: sa, come in un riflesso pavloviano in Italia tutto ricade su Berlusconi e tutto fa portare a Berlusconi. Oggi il Fatto Quotidiano titola, parliamoci chiaro, questo indulto non è vero, che questo indulto in caso venisse approvato non servirebbe a Berlusconi. Ci sgombra intanto il campo equivoco, lei che è berlusconiano, è vicino, è in quel partito. Viene fatto tutto ciò o viene portato avanti dal PDL anche in funzione pro Berlusconi? Senta, prima di tutto io adesso devo rispondere alla domanda e poi volevo anche rispondere a qualcosa che ha detto Gratteri. Sì, certo. Dopodiché mi deve scusare, ma io devo raggiungere il Senato. Sì. Detto questo, per quello che diceva Gratteri non eludo la domanda sull'indulto e l'amnistia per Berlusconi. Io non solo sciolsi la banda in quel breve periodo di ministro, ma cercai di recuperare al corpo tutti gli agenti di polizia penitenziaria che erano in servizio di scorta su magistrati che erano stati in servizio al ministero e che non vi erano più, cioè in un servizio di scorta sostitutivo rispetto al servizio di scorta delle forze dell'ordine. Cercai di capire quanti agenti di polizia penitenziaria erano impegnati negli uffici, in vero un numero rilevante, rispetto a quelli che invece che essere impegnati nelle carceri come da servizio di istituto. Dopodiché il governo cadde e evidentemente non potete intervenire su questa storia. È vero quello che dice Gratteri, che vi è una scopertura di organico abbastanza rilevante nel corpo della polizia penitenziaria, però si sa anche bene che le piante organiche sono scoperte un po' dappertutto in ragione dei blocchi dei turnover e quant'altro. Non credo che questo sia il motivo principale del sovraffollamento delle carceri. È uno dei motivi. No, mi scusi, se posso parlare e io lo spiego, se no se faccio questo ragionamento c'è un motivo. Molti carceri, pertanto, come accennava Gratteri, non vengono aperti per carenza di personale e conseguentemente i detenuti debbono essere ammassati verso altre carceri. Un altro problema che c'è e che è molto importante, in ragione delle antiche rivendicazioni sindacali e delle conquiste sindacali, noi non siamo in grado sul piano tecnico di spostare gli agenti di polizia penitenziaria da un istituto ad un altro, nel senso che noi li possiamo mandare in missione e tutto questo comporta un aggravio di risorse finanziarie in un ministero, vediamoli così, dove le risorse finanziarie oggettivamente non sono tantissime. Il problema è molto complesso, si può affrontare in tanti modi, ma i lati di questo problema o sono conosciuti fino in fondo oppure danno una impressione interessante sotto il profilo demagogico, ma probabilmente non pienamente. Però, senatore Palma, prima di lasciarci per andare al Senato, Berlusconi, appunto. Infine, sto arrivando, mi scusi, avevo detto che non eludevo la domanda. No, ma è chiaro, Allora, ogni legge disciplina il relativo indulto e la relativa amnistia. Quindi, primo punto, dipenderà da come queste leggi usciranno dal Parlamento. E mi permetto di dire che siccome vi è la maggioranza, la Costituzione richiede la maggioranza dei 2/3 per l'approvazione dell'amnistia e dell'indulto, ed essendovi la maggioranza assoluta alla Camera, del Partito Democratico e non essendovi alcuna maggioranza del Popolo della Libertà al Senato, evidentemente quella legge, la legge sull'amnistia e l'indulto che verranno varate, subiranno evidentemente l'influenza di questa differenza numerica. No, chiaro, quindi l'altra, come dire, se dove, posso tradurla così, senatore, posso tradurla così, se dovesse essere fatta una legge che vale anche per Berlusconi è perché anche il PD numericamente la approverà. Questo, allora, questo questa è una conseguenza. Seconda cosa, per quello che riguarda l'amnistia, l'amnistia classica fino a quella del 1990 prevedeva la possibilità di amnistiare i reati con un tetto di pena, prima fino a 3 e poi fino a 4 anni, con delle esclusioni oggettive. Quindi sotto questo profilo, a me pare, se il futuro provvedimento di amnistia dovesse essere simile ai precedenti provvedimenti di amnistia, a me non pare che l'amnistia possa avere incidenza sulle vicende giudiziarie del Presidente Berlusconi. Vabbè, però questo si vedrà, si vedrà come sarà scritto. Uno può dire, dal Partito Democratico, voglio dire, e anche da voi, e anche da voi. Sì, anche da noi, ma la maggioranza non l'abbiamo noi. Certo. E poi voglio dire, le leggi si possono scrivere in tanti modi, si possono scrivere a de persone, ma si possono scrivere anche contro persone. Ma l'ultima cosa che voglio dire riguarda l'indulto. Questo è un provvedimento che può invece avere efficacia sulla vicenda giudiziaria del Presidente Berlusconi, in quanto, a meno che non si voglia cambiare la prassi che ha assistito gli indulti precedenti, e normalmente quando viene emesso un indulto si dice anche nella norma che l'indulto, nel caso in cui il soggetto ha già usufruito di un indulto precedente, si applica a questo soggetto in termini ridotti, nel senso, se la prima volta si applica per 3 anni, ove mai l'indulto fosse per 3 anni, la seconda volta si applica per 6 mesi, un anno, mezzo, a seconda di quello che vi sarà. E Berlusconi, quindi, la prima volta ne ha goduto, perché appunto ne ha goduto. Quindi potrebbe, se si scrive, potrebbe usufruirne in maniera scontata, diciamo. Potrebbe usufruirne in maniera ridotta. Tenga presente che il legislatore, nel momento in cui fa la legge, può fare una norma con cui dice chi ha usufruito di un indulto precedente non usufruisce del presente indulto. Ah, ecco, e questo sarà oggetto di, come dire, trattativa parlamentare. La ringrazio, senatore, la lasciamo al Senato, andiamo a sentire il traffico e continuiamo e concludiamo con Nicola Gratteri e gli ascoltatori tra poco. Eccoci qua, eccoci alle 8:49. Allora, procuratore Gratteri, lei una proposta l'ha fatta, e cioè a dire, l'ha detta anche prima, andiamo nei paesi dove ci sono la maggior parte di popolazione carceraria, che ne so, Romania, Albania, Tunisia, e dire quanto costa, per esempio, quanto costa da voi di tenere un detenuto? Ci costa 10 euro al giorno, a noi ci costa 300 euro al giorno. Quindi, anche noi a pagare vitto e alloggio, noi risparmieremmo. Anche a pagargli il vitto e alloggio in quegli stati noi risparmieremmo. Poi bisogna risolvere il problema dei tossicodipendenti che sono detenuti a causa della loro tossicodipendenza, quindi andrebbero trattati in un centro di recupero, e le statistiche ci dicono che ogni 10, 4 ce la fanno, quindi vale la pena provare a salvare 4 giovani, 4 vite e quindi 4 famiglie. Sì, però queste sono tutte risposte che lei dice deve darci la politica, nel senso. Ma poi si è parlato anche dei costi, cioè si è detto che non si fanno concorsi per le forze dell'ordine perché mancano i soldi, e questo è vero, ma è anche vero che i concorsi che sono stati fatti poi nelle realtà, appena questi hanno finito il corso, non sono stati immediatamente inseriti nel circuito per fare lavoro, per fare trattamento. Però è anche vero che si continuano a fare gli sprechi nei ministeri, perché si continuano a fare tagli lineari, e questo è il vero problema. Cioè fare tagli lineari, cioè abbattere del 5% la spesa di tutti i ministeri, vuol dire non andare a vedere dove c'è spesa produttiva, ma anche all'interno dello stesso Ministero della Giustizia, ma anche all'interno della spesa del sistema giudiziario ci sono gli sprechi. Penso all'informatizzazione, penso anche all'uso delle macchine, perché non si vuole fare la modifica sulla videoconferenza. Tutti questi detenuti che girano dalla mattina alla sera per l'Italia, lei pensi che ci sono stati in quest'anno ci sono stati 400.000 traduzioni solo nel 2012, una cifra enorme, a fronte di 66.000 tenuti, 400.000 traduzioni. Le immagini con la videoconferenza, quanti milioni di euro uno mette la tecnologia e fa la videoconferenza. E quindi con questi soldi che si risparmiano si possono fare concorsi, può assumere gente. O anche costruire nuove carceri. Ma basterebbe aprire quelle che già ci sono chiuse. Lei non ha idea quante carceri in Italia sono chiuse. Oggi sul giornale c'è scritto, per esempio. Sentire un ascoltatore, poi torno da lei. Vincenzo da Catania. Vincenzo, buongiorno. Sì, no, ma che mi sento io? No, Vincenzo, c'è un audio. Sì, ecco, mi dica. Mi sentivo. Pronto, la sento benissimo, Vincenzo, dica. Vabbè, Vincenzo, l'audio è pessimo, noi la sentiamo, ma lei no. Carmelo da Siracusa, buongiorno Carmelo. Buongiorno, senta, io chiamavo perché ho presieduto una commissione conoscitiva sulla situazione penitenziaria in provincia di Siracusa. Sì. Io le voglio dire semplicemente questo, io credo che la soluzione dell'amnistia e dell'indulto sia la dichiarazione di fallimento dello Stato e del Parlamento italiano. Noi oggi, sia in provincia di Siracusa che in Italia, abbiamo il doppio dei detenuti ammissibili secondo gli standard stabiliti dalla legge e la metà degli agenti di polizia penitenziaria che dovrebbero svolgere questo servizio. E questo perché secondo lei c'è... Perché, guardi, il problema è esclusivamente normativo, perché... In alcune carceri noi abbiamo addirittura il 40% dei detenuti in attesa di giudizio, che è una cosa vergognosa. Noi abbiamo una situazione penitenziaria all'interno delle carceri che è da terzo mondo. Abbiamo un sistema legislativo che dovrebbe modificare nelle pene alternative la soluzione di Carmelo, lei mette i punti di cui si diceva che ai quali la politica non ha dato le risposte, però io, siccome c'è un magistrato, procuratore Gratteri, le chiedo una risposta invece a lei, cioè non c'è questa carcerazione preventiva, per esempio, no? Sì, ma la carcerazione preventiva c'è anche perché i processi sono lenti perché non si vuole informatizzare il processo penale, perché noi abbiamo proposto in questa commissione che tra poco saranno depositati i lavori, noi abbiamo proposto l'informatizzazione delle notifiche. Noi ancora facciamo notifiche con l'ufficio giudiziario, facciamo notifiche con i carabinieri che anziché andare a fare indagini vanno in giro e fare i messi notificatori. In questo modo è ovvio che i processi durano tantissimo e poi c'è il problema di quello che esce per decorrenza dei termini. Cioè, se noi informatizziamo il processo penale, cioè se i tribunali fossero delle imprese private, domani mattina fallirebbero tutte perché sono fuori mercato punto di vista della tecnologia e dell'informatizzazione. Allora, o qui informatizziamo il processo penale oppure non andiamo da nessuna parte. Certo che ci sono il 40% in attesa di giudizio, perché non si riesce a fare i processi, a farli perché, veloci, perché, noi, perché noi ancora consentiamo 400.000 traduzioni per portare il detenuto da una parte all'altra. Questo dato è incredibile, dottor Gratteri. Però nel concludere, cioè con Emiliano è partita una disfida su Twitter, no? Perché Emiliano risponde sulla terza guerra mondiale, che dice si è già scatenata nel conflitto tra PM e Presidente della Repubblica, c'è già su questo tema, no? Ho capito, ma io dico, siccome ritengo che questo sia un fatto soprattutto politico, quello del 94, così come impostato da Emiliano, cioè il problema di Pianosa all'Asinara è un problema politico, cioè se si vogliono riaprire ci vogliono 5 minuti in Parlamento per riaprire Pianosa all'Asinara, visto che sono state chiuse con legge. E io in un dibattito l'altra volta un parlamentare mi ha detto ma è stata chiusa con legge, non si possono riaprire. Dico, come, avete messo mano alla Costituzione, figuratevi a modificare un articolo. Si è cambiato di notte con la cosa sugli esodati, le pensioni, non si può riaprire Pianosa e l'Asinara. Faccio mio il suo appello, riapriamo Pianosa e l'Asinara e mettiamo lì quelle del 41 bis. Questa è la proposta, diciamo, che dice il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri ai nostri microfoni. Ci fermiamo qui. Ringrazio Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli e Elisabetta Fusconi in redazione. Salutiamo anche l'onorevole Giulia Sarti, il Movimento 5 Stelle ci aveva detto che sarebbe stata con noi. Pazienza. E allora andiamo a domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.